Signore e signori, buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Dallo studio dell'emittente radiofonica Rock FM. Trasmettiamo Eclettica! Cari ragazzi, buon pomeriggio. Il programma Eclettica. Rubrica dedicata ai problemi tecnici dell'agricoltura. Di e con Giulio Caperdoni. Inizia oggi il suo regolare servizio di trasmissioni televisive. Da parte mia, a tutti voi, l'augurio di una buona visione. Signore e signori, buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buon pomeriggio. Buonasera. Sera. Sera. Sera. Tra qualche istante vi trasmetteremo a colori Eclettica! Eclettica! Eclettica! Andrà in onda tra qualche istante Eclettica! Signore e signori, vi auguriamo buonanotte. Buonanotte. Buonanotte. È Giulio Caperdoni a prendere il testimone da parte di Edo. Il testimone nel nostro caso è la somma di mixer, microfono e cuffie. Poi lo conserverò per un'ora per passarlo a Marco Garavelli, che a sua volta lo passerà a Claudia e poi a Maurizio Faolisi. E così la sera di Rock FM tutti i giorni. E tutti i giorni c'è Eclettica fra le 19 e le 20. myspace.com/eclettica e giulio@radiorockfm.com. L'indirizzo di mail da utilizzare. Da utilizzare. Utilizzatelo. Scrivetemi, fatemi le domande sui brani che sentite in onda, mandatemi le vostre suggestioni e i vostri consigli. Utilizzatelo anche per iscrivervi alla lista nera di Eclettica. Vieni oltre alla finestra, mia piccola cara. Mi piacerebbe poter leggere il tuo palmo di mano. Io pensavo di essere qualche tipo di ragazzo zingaro prima di permettermi di prendermi a casa. Ora è così tanto, Marianna. Era tempo di ricominciare, a ridere, piangere e piangere e ridere su di esso ancora. Bene, tu sai che io amo vivere con te, ma mi fai dimenticare così spesso. Io dimenticai di pregare gli angeli e poi gli angeli dimenticarono di pregare per noi. Ci incontrammo quando eravamo abbastanza giovani, immersi nel verde parco lilla. Tu mi tenevi fermo come se fossi un crocifisso, come se ci stessimo inginocchiando attraverso il buio. Le tue lettere mi dicono che sei accanto a me ora, quindi perché mi sento solo? Io sono sulla sporgenza e il tuo bel tessuto di ragnatela sta legando le mie caviglie ad una pietra. Ora io ho bisogno del tuo amore nascosto, sono freddo come una nuova lametta. Tu partisti quando ti dissi che ero curioso, non dissi mai, mai di essere coraggioso. Oh, tu sei veramente simile ad una graziosa creatura. Ho visto che sei andata e hai cambiato il tuo nome ancora. Ora è così tanto, Marianna. Era tempo di ricominciare, a ridere e piangere e piangere e ridere su di esso ancora. Questa era So Long, Marianne, di Leonard Cohen. Suicide, weak formaldehyde. You could wake up if you tried. Oh, now promises, broken record sales. You could stop it if you tried. You can't look me in the eye. Start again.

lullaby. Vi avevo già detto ieri di quante novità italiane mi fossero arrivate in questi giorni e quante di queste fossero anche di buona qualità. Ne sta per arrivare un'altra, anche se a tutti gli effetti quella che sta per arrivare possiamo considerarla italiana solo al 50%. Però vi voglio ricordare che vi siete ascoltati in inizio di trasmissione quest'oggi Megaphone con Lazy Suicide e poi The Zen Circus con alcuni dei loro idoli di gioventù, mi permetterò di chiamarli in questo modo, Brian Ritchie, e nel brano in questione Kim Deal e Kelly Deal, Punk Lullaby è la canzone che si è appena chiusa. Italiani al 50%, per l'altro 50% francesi, la base è Mestre, Venezia, si chiamano Grey Moon, sicuramente ricorderete il loro ultimo album di 2 anni fa, tra l'altro il primo ufficiale, ma noi ci eravamo ascoltati anche delle autoproduzioni in precedenza. La Lanterne Magique era uscito nel novembre 2006 e quindi sta per arrivare il nuovo album, sta per arrivare veramente a pochissimi giorni, vediamo se riesco anche a trovarvi la data precisa, 14 di marzo, ecco, il 14 di marzo sarà pubblicato ufficialmente dalla Macaco Records il nuovo album dei Grey Moon, un album in cui ci sono parecchie collaborazioni prestigiose, si dice così, no? Tre allegri ragazzi morti, The Black Heart Procession, Marta Collica, Mariposa, Giovanni Ferrario e così via. Ce ne sono anche altre. Però io per iniziare voglio proprio farvi ascoltare l'unico brano in cui non c'è nessuna collaborazione, ma i Grey Moon da soli. È Madame Bateau. Je m'appelle Madame Bateau. J'ai passé ma vie sur un raffio. Un pistolet et bricolé, moi j'y suis né. Durant des années, je ne l'ai pas quitté. Jusqu'à un matin, le dernier 17 janvier, je me suis sentie vieille, grisée par les années. Alors j'ai décidé qu'il était temps de mettre les pieds sur terre. Madame Bateau a décidé de ne pas finir sa vie en mer. Madame Bateau, voilà donc pourquoi j'ai débarqué à Paris. La scène était calme, je repensais à la mer et je suis descendu sur terre. Mais voilà que sous mes pieds, Paris s'est mise à tanguer. Et moi j'ai commencé à marcher, me balançant sur les quais. Madame Bateau est enlacée dans une danse avec la vie, avec Paris. Madame Bateau, glisse dans la ville comme sur une vague. Madame Bateau, j'ai marché des jours durant, suivant le courant de mes vagues à l'âme, et je me balançais dans Paris qui me regardait. Mais un beau jour, j'ai arrêté de tanguer. J'ai souffert du mal de terre, alors je suis entré dans un bar. Madame Bateau a commencé à boire. Elle est devenue accro au whisky. Madame Bateau, Madame Bateau a commencé à tanguer. En buvant et maintenant, elle attend que le temps vienne. Don't get out of here. Io accesi una sottile candela verde per farti gelosa di me, ma la stanza era colma di zanzare, loro udivano che il mio corpo era libero. Poi io presi la polvere di una lunga notte senza sonno e la misi nella tua piccola scarpa. E poi io confessai che torturai il tuo abito che tu vestivi per il mondo per guardare attraverso. Mostrai il mio cuore al dottore e gli disse che dovevo smettere. Poi scrisse lui stesso una prescrizione ed il tuo nome era menzionato in essa. Poi egli chiuse se stesso in uno scaffale della libreria con i dettagli della nostra luna di miele. Ed io ascoltai dall'infermiera che egli era andato peggiorando, il suo esercizio era tutto in rovina. Io sentii di un santo che ti aveva amato, così studiai tutta la notte nella sua scuola. Egli insegnò che il dovere degli amanti è di offuscare la regola d'oro. E appena fui sicuro che i suoi insegnamenti erano puri, egli si affogò nella piscina. Il suo corpo è andato, ma è tornato qui sul prato. Il suo spirito continua a parlare pretenzioso. Un eschimese mi mostrò un film che ha recentemente girato su di te. L'uomo povero poteva difficilmente smettere di tremare. Le sue labbra e le sue dita erano blu. Io suppongo che egli congelò quando il vento prese i suoi vestiti e io penso che non ebbe mai calore. Ma tu sei così graziosa nella tua tormenta di ghiaccio. Oh, per favore, lasciami venire dentro la bufera. Questa era One of Us Cannot Be Wrong di Leonard Cohen. Chiunque voi siate, vi supplico, dovete aiutarmi. Ma, sono io, Gianna, ma che cosa dici? Oh, Gianna. Tanto non mi sfuggirai. Ti ucciderò lo stesso, una volta o l'altra.

dal quale vado ad estrarre un brano intitolato These Are Illusions. E visto che la loro terra di provenienza appartiene alla Scandinavia, esattamente come la Svezia, mi viene quasi da dire, e chissà se verrà anche a voi ascoltando questa canzone dei Wolfkin, ma che siano i nuovi Peter, Bjorn and John?